Vedi via o riparto a dritto? Ma riparti! Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendola alla Galleria San Lorenzo in pieno centro di Montemarchi. In regia per noi stasera Francis Ford Coppola. Fumino, invece, chi è il nostro ospite? Buonasera a tutti, il nostro ospite è un ospite che ha poco bisogno di presentazione, è un ospite che ha una storia lunghissima da raccontare al seguito del Montevarchi e appunto dietro ad un microfono di una radio. È un ospite che ha addirittura fondato Radio M, che era Radio Montevarchi. Smetto qua i convenevoli e ve lo chiamo in trasmissione. Benvenuto a Marco Chimentelli. Buonasera a tutti. Allora Marco, innanzitutto siamo colleghi quasi, diciamo, mettiamola in questo modo, eh. Allora, collega a collega, una domanda. Te hai fatto a lungo per molti anni le telecronache del Montevarchi, le radiocronache del Montevarchi direttamente dallo stadio. Com'è raccontare le partite della squadra per la quale tifi, quella della tua città, però mantenendo una parvenza professionale? Bravo, una sensazione molto strana quella, sì. Anche perché cerchi di parlare il più correttamente e il meno valdarnese possibile nei limiti che si può. E comunque abbiamo fatto delle cose sempre con un po' di ironia, ecco. Abbiamo usato molto spesso l'ironia, però chiaramente quando c'è il do importante ti lascia andare. Non è che ne puoi fare a meno. Qualcuno, magari in società, in vecchia società, mi ha anche accusato di essere troppo tifoso, nel senso che sia nel bene che nel male, anche nelle critiche, chiaramente. Anche ad esempio quando c'è da incazzarsi per parlare male, mi immagino sia parecchio complicato dover mantenere un aplomb radiofonico. Sì, in effetti nei confronti. Non è che io sia uno che mangia arbitri, però qualche arbitraggio strano, insomma, io su Facebook ho messo anche quello di domenica, francamente. Pur non parlando, ho scritto un pochino anche di lui. Sì, per chi ci sta ascoltando, stiamo trasmettendo e domenica scorsa in Montevarchi ha pareggiato 1-1, non ricordo esattamente però con quale squadra, però l'arbitraggio è stato un po' strano e soprattutto la squadra è rimasta in 10 abbastanza presto, In diciamo. Digione una cosa strana, soprattutto io ho chiesto a degli amici o anche degli amici ex arbitri che se mi riuscivano a spiegare la differenza che c'è di parametri sull'espulsione del Montevarchi e quella non avvenuta della Salernitana del sabato, che era un fallo ancora più evidente, braccio alzato, e nessuno ancora mi ha risposto. Sono, il calcio è bello anche per questi misteri, Fumi. Il calcio, d'altra parte, nel mondo arbitrale ancora gode di discrezionalità da parte del direttore di gara, che è il re unico che è in campo, e quindi a noi la VAR non ce l'abbiamo e non c'è modo di ancora tornare indietro e poter riguardare. Però torniamo indietro in quello che possiamo, e quindi torniamo indietro nella Montevarchi degli anni 70, la Montevarchi quando tu, Marco, eri appena maggiorenne e avevate deciso insieme ad altri amici di fondare Radio M, ovvero Radio Montevarchi. Ci racconti questa esperienza, questo viaggio? Partiamo da qua, la tua storia legata all'Aquila, che alla fine è proprio il punto di partenza. In effetti, allora, in quel momento che ci chiamavamo Radio Montevarchi, iniziamo i primi 2 o 3 mesi proprio da Montevarchi, era il gennaio del 78, se non sbaglio. Tanto per far rendere conto ai tifosi, i primi due ospiti che ho avuto il sabato della presentazione delle partite, ancora non facevamo radiocronache, però facevamo la trasmissione del sabato, furono Polvar e Bressani, tanto per fare due nomi. E quindi, e niente, un'avventura iniziata fra 4 amici, poi interrotta perché chiaramente non avevamo in quel momento né sufficienti mezzi né sufficiente tempo da poter dedicare alla radio. Abbiamo trovato in Terranuova Racciolini. C'erano diversi nel Val d'Arno, i movimenti c'erano diversi che erano interessati a fare delle radio, però trovammo in Terranuova Paracciolini delle persone veramente in gamba, trovammo i locali allora per poter partire, e da lì partì Radio M, diciamo abbreviato, che diventò più valdarnese. Quindi non ci occupavamo solo di Montevarchi, ma anche della cosa subito che fu la San Giovannese e tutte le altre squadre, ovviamente, del comprensorio. Noi, mi ricordo allora, quando facevamo le trasmissioni domenicali, c'erano anche 7-8 campi collegati a Porto. E tanto per comprendere, alla fine noi abbiamo aperto una radio con un computer e pochi spiccioli annuali, per fortuna finché dura, e che ci permettono di stare in piedi. Ma ai tempi che tu ci hai raccontato, quindi negli anni 70, i computer così non c'erano, internet non c'era, e quindi aprire una radio voleva dire comprare un segnale, dei ripetitori, le attrezzature. E in sede di presentazione della puntata, nel parlare fra di noi, ci hai raccontato di quello che io mi sono immaginato come un viaggio della speranza, addirittura a Pordenone, per comprare le attrezzature. L'antenna principale, sì. L'antenna principale di trasmissione che fu collocata allora nel primo ripetitore, fra l'altro contestato, in cui ebbi subito una denuncia da parte delle autorità competenti, cioè non quelle competenti, cioè diciamo l'Esco Poste, era la polizia giudiziaria delle poste, insomma. Subito si cominciò subito bene. La denuncia di benvenuto, bravo. Sì, la denuncia di benvenuto, va bene. Comunque, sì, in effetti andavamo a Pordenone addirittura in treno a prendere questa antenna che era 12 metri complessiva, aveva elementi da 3 metri, quindi portare un pacco di 4 pezzi di 3 metri di alluminio in, insomma, era tanta roba. Occupavate una carrozza. Praticamente sì, insomma. E allora sì, ci voleva altri mezzi, io usai, ricordo, quello che doveva essere il regalo per me di una promozione scolastica. Fu mia nonna che mi diede l'equivalente, non so come fece, ma io chiesi quello, l'equivalente di 700.000 lire, che allora ci si poteva comprare una moto da cross. A Montevarchi andava molto il cross. Io non sono mai stato un appassionato di motori, e con queste 700.000 lire da allora, insomma, nel 77 era un po' di robina, e ci feci. Poi quella era la mia quota, poi c'erano le altre tre quote. Però chiaramente non esistevano telefoni cellulari come ora per collegarsi, per fare interviste, figuriamoci. Abbiamo fatto addirittura radiocronache, io per ricordarne ne ricordavamo una con Giustino Bonci l'altro giorno da Savigliano, in cui lui guardava la partita, cioè io guardavo la partita dalla rete e lui dal bar, che non si vedeva, gli riportavo le cose dal bar, con il telefono raccontava la partita, cioè cose... Tipo il telefono senza fili, praticamente. Pazzi, sì, veramente. No, e Marco, te sai, no, che noi con questa trasmissione usiamo anche un po' l'Aquila 1902 come pretesto per indagare quella che definiamo la montevarchinità. Raccontaci un po', in quegli anni lì, come rispondevano i montevarchini alla radio e comunque a quattro coetanee presumibili, o comunque quattro giovani che investivano, come ci ha appena raccontato, tutto quello che avevano a disposizione per una passione, di fatto. In quello diciamo ci ha dato una grossa mano quelle che erano i momenti calcistici delle nostre squadre, in particolare proprio in Montevarchi. Io è incalcolabile quasi quante persone possano aver ascoltato, per esempio, lo spareggio di Empoli, tanto per farne una di esempi, oppure le dirette da Lugo di Romagna. Queste sono cose che dove magari nel paese limitrofo, appena ci arrivava un poco, lava le radioline sul muro, e qualcuno mi raccontava, qualche amico mio che era al mare, che doveva essere al mare per motivi familiari, qualcuno ha dovuto andare in Riviera, qui nel Tirreno, montare sulla casa, all'antenna di casa, ascoltare intorno all'antenna della TV per poter prendere e captare bene il segnale, perché una volta quando iniziamo arrivavamo addirittura in Corsica, poi chiaramente intassandosi le frequenze poi non era più possibile man mano. Ma questo è riferito alla partita di Lugo? No, quella è riferito più che altro alla partita di Empoli. Perché sai che io ho un ricordo, però non sono così certo, che quando in Montevarchi giocò la partita decisiva a Lugo, io ero a Viareggio con mio padre, perché si doveva affittare la casa per il mare, e ricordo che si prendeva Radio M, secondo me è possibile, solamente in certi punti della Darsena, esatto. Per cui noi nel finale della partita si stava con la macchina in un punto per captare il risultato, sì, sì, il fischio finale, e mi ricordo il fischio finale e mio papà esultava tipo questa cosa. Esatto. Sì, no, ma io ho vissuto anche sulla mia pelle quello che voleva dire. Allora ancora era partita la radio, mi ricordo, senza di me a Terranova a marzo, sì. E io ero a fare il militare allora, quando ci furono gli spareggi di quelli a 5, i famosi spareggi a 5, quelli di Carrara, tanto per dire, quelli di Pistoia con la Carrarese, e io ero a fare il militare, purtroppo non potevo vedere, e allora c'erano i telefoni a gettoni. chiamavo casa mia. Io abitavo abbastanza distante, cioè vicino al viale Diaz, però un po' distante, perché casa mia era fra l'altro al quinto piano, e dal posto dove avevo il telefono, perché non c'erano 70 telefoni in casa, ce n'era uno solo, alla terrazza c'era un bel po' di spazio. E mi ricordo, io telefonai e mi disse mia mamma che stavano 2-2, erano supplementari, Montevarchi vinceva, poi era stato ripreso. Io francamente in quei minuti trascorsi per poi richiamare a casa ero rassegnato, perché dissi ma ci hanno ripreso, rimonta, figuriamoci, ci fanno un rosole. Poi ricordo io chiamai speranzoso, mio padre mi disse senti Nini, proprio così mi disse, e mi mise il telefono. Così. E io sentivo addirittura i clacson delle macchine, cominciai a piangere, avevo i lacrimoni, e c'era uno di Prato con me che mi diceva ma sei pazzo, vieni qua. Io volevo andare a prendere il treno e volevo venire a casa, cioè era la sera, io volevo venire via immediatamente, proprio su quelle cose ti prendano quel modo lì. Beh, guarda, una storia bellissima. È l'unica cosa che non ho visto, ripeto, di queste cose, perché queste le ho viste, cioè da Firenze, che ero ancora più piccolo, fino a poi l'ho vissute tutte, però quella io ero a fare il militare e non l'ho potuta vivere. Una storia di Montevarchi in Italia come poche se ne è sentite fino ad ora. Effettivamente sì. E Marco, la tua carriera sportiva da ragazzo, come un po' tutti i ragazzi hanno fatto qualche sport, non era dedicata al calcio bensì al basket. Ho giocato, me la cavavo anche benino, perché sono arrivato fino alla prima squadra. Poi a 20 anni, una cosa strana, ricordo i ragazzi più grandi decisero di giocare il domenica pomeriggio, noi prima giocavamo il sabato sera in casa, e io improvvisamente anche lì feci la mia scelta di andare a ballare e fare cavoli mia e non far tua. Cioè questa è proprio una cosa, ma me la cavavo benissimo, ecco, quello tornassi indietro è una scelta che forse non rifarei. Quello è una scelta delle quali nella mia vita mi sono pentito, perché sport avrei voluto continuare a farlo. Poi l'ho rifatto successivamente a 40 anni, ho cominciato a ricordare un corso mountain bike, mi sono tesserato anche per una società per 2 anni, insomma, ho corso anche mountain bike e poi mi sono rifinito. Cioè, io con lo sport ho un rapporto d'amore e odio, perché poi chiaramente se smetto gli evito come una ciambella, quello è normale. E però, nonostante la tua passione sportiva che era dedicata al basket, la tua invece passione da tifoso era tutta per il calcio. Certo, ma io avevo un nonno che era anche paralizzato, per metà era paralitico, e mi ricordo mi portava, io abitavo davanti all'attuale ricovero, insomma, alla casa di riposo, e mi portava al bar del Bar Italia, al bar del Forni, qui dove c'erano le logge che c'erano le site una volta. Era uno dei primissimi che faceva i gelati artigianali, faceva solo 4 gusti. Io avevo 6-7 anni, mi portava in quelle condizioni a prendere il gelato e poi mi portava in Belliperi quando si giocava a casa. E ero alla rete, sempre alla rete, perché mio nonno stava sempre alla rete lì, dietro la porta della, diciamo, dell'ingresso, ecco, principale di Belliperi, ero sempre lì. Allora chiaramente non c'era nelle curve, nella gradinata, c'erano, mi ricordo, stipini grandissimi. Io ho questo ricordo dello stadio di Montevarchi, sì, questo sì. E ricordo anche di essere stato uno dei pochi, un aneddoto, l'anno che noi siamo tornati in Serie C, la partita decisiva fu Montevarchi-Grosseto, c'ero, e fu decisa praticamente da 2 rigori. Un rigore per il Montevarchi, battuto da Balleri, che era allenatore e giocatore, lo realizzò, e poi ci fu il rigore per il Grosseto. Tutto lo stadio girato, io che mi giro di solito, a parte nelle dirette, insomma, se non mi giro io per i rigori, ero convintissimo che lo parasse. Infatti Capella, il portiere di Montevarchi, lo parò, e quella fu la partita decisiva che poi ci portò in Serie C, la Serie C dei tempi moderni, 69-70, insomma. E quale pensi sia stata la partita più indimenticabile che ti hai commentato? Io ho un periodo indimenticabile, che sono 10 giorni, che sono quelli a cavallo fra la partita con il San Donà e Lugo, e 10 giorni perché? Perché giovedì avevo perso la mamma, giovedì prima della partita decisiva in casa con il San Donà, era morta mia mamma, era malata, e ricordo la radiocronaca, tutte e due le radiocronache le feci fare a Mauro Torelli. Non le feci io, perché emotivamente mi sentivo francamente un po', infatti anche lì io non piango, cioè non ho pianto davanti alla parte di mia mamma, ma pianto in tutte e due le partite, cioè io piango dalla contentezza, non riesco a piangere dai dolori, è una cosa strana, però questo lo fa, me lo fa a me, e cioè quella che sta andando, penso non sia neanche paragonabile a quella dell'Italia Mondiali di Messi, no? Perché quella è una cosa fantastica, veramente. Cioè, poi è di parte, francamente, è tutta un'altra cosa, tutto un altro mondo. O per non parlare di Lugo, dove mi riuscì a litigare addirittura con pochissimi 3-4 persone che c'era di Lugo, con uno, perché ricordo il custode quando Arcadio fece il gol, il primo gol, ci mandò a quel paese, io avevo per l'appunto una tuta dell'Adidas rosso-blu e proprio mi ci mandò in faccia, allora io gli denti quasi dietro, lui si nascose, lui infilò dentro dove era i torelli e io rimasi fuori dalla tribuna stampa e quell'altro mi facevano sì, ma guarda, è un po' strano, insomma, io mi mandai a tasca da questo lì, insomma, gli dissi anche a lui, guarda, insomma, e ci vuole tutti curare su uno stadio rosso. Sì, infatti, perché la cosa bella è che di Lugo saranno stati davvero 10. C'erano 10 persone anche di una certa età che erano abbonati di lunga data, ma poco più di Lugo, proprio, veramente. Infatti cercavano, diceva, ma sta calmo, sì, ma io mi calmai subito, per carità. Ma so che alla fine li dico anche con Giuliano Sili giù negli spogliatoi, questo sì, sì. Quindi io li chiamavo con Giuliano e li chiamavo tutti e due. E hai fatto un nome che non possiamo far finta di non aver sentito, anche se vorremmo a volte. Vabbè, gioie e dolori, un bel po' di gioie e anche un bel po' di dolori. Diciamo che almeno io vengo da un'epoca dove questo nome era sinonimo, non voglio dire di bestemmie, però insomma di parolacce. Io invece ho visto anche fortunatamente il periodo, diciamo, d'oro sotto la gestione tecnica di Giuliano Sili. Il tuo rapporto con Giuliano Sili in particolare, ma con le società in generale che si sono avvicendate via via di volta in volta alla guida del Montevarchi, te da cronista e anche da alla fine produttore della cronaca che facevi, perché eri il proprietario della radio sostanzialmente, ti sarai comunque trovato a scontrarti con qualcuno di queste persone. Sarà un caso, ma con le dirigenze montevarchine vado d'accordo. Con gli altri ho qualche problema, li ho sempre avuti, ma non è, cioè, probabilmente ho una malafede mia che mi domando chi te lo fa fare il calcio a Montevarchi, te che sei di fuori, magari mi faccio questa domandina e quando mi do una risposta magari tante volte non me la so da bene, ecco, diciamo così forse. Per il resto sì, ci sono stati scherzi, ovvio, qualcuno, io, a me non poteva nessuno dirmi quello che dovevo dire o che dovevo fare. Ti basti dire, guarda, io mi ricordo ancora con tenerezza Vasco Farolfi, che c'era un anno che noi si andava in trasferta, si prendeva il primo gol, se ne prendeva tre regolarmente, perché ci fu quell'anno lì, ma non si retrocesse, però non ricordo neanche chi c'era in panca, però in casa si andava bene, in trasferta se usciva fuori si pigliava tre gol a partita. E io quasi diciamo, ero ironico, no? Fatto il primo, dicevo, ora si aspetta di pigliare il secondo, stavo così. Sì, io mi ricordo, io non si comanda. Gestivo anche la fonica dello stadio, andavo sempre un'ora avanti allo stadio di Montevarchi e io trovavo dirigenti lì, trovavo sempre Vasco. E Vasco mi ricordo una volta mi prese sotto braccio e mi disse, dice Onini, proprio, che lui dice, ma questi ragazzi, diciamo, si va a fare, guarda dei danni un po' di burro. Ora, per l'appunto era nata la prima televisione anche nel Valdarno. E io dissi, Vasco, senti, a parte che io, mi rimane difficile, cioè mentire in diretta, cioè non saprei nemmeno come fare. Però, e ora c'è anche la televisione, sì, che e passo da Pischia. E mi disse, fa anche ragione. Proprio sì, che mi disse, cioè, ma non mi disse, ecco, lui da un padre mi diceva, guarda, vediamo se qualcun altro magari che contava un terzo di lui, che cappero dici che? Dico quello che mi pare, è semplicemente, anche perché ho avuto un vantaggio rispetto a tanti giornalisti, che ero editore di me stesso, questa è una gran cosa, perché se essere padrone di te stesso non hai uno che ti tira l'orecchio e ti dice, guarda, devo vendere pubblicità, devo fare, questo è un grosso vantaggio. E collegandoci ancora una volta ai nomi, alla fine la montevarchinità è fatta di nomi, luoghi e ricordi, e mi allaccio ad un altro nome che hai fatto, e quindi Vasco Farolfi, che non sei il primo, più di un ospite ce lo ha definito come un padre e anche tu hai usato questa espressione e mi fa molto piacere, perché Vasco Farolfi nell'immaginario di noi più giovani che non lo abbiamo conosciuto direttamente è comunque un padre anche per noi, forse un nonno, ma insomma una... È stato anche un nonno per come l'ho visto io, perché c'è un altro aneddoto, che l'ultimo anno che siamo saliti in C1, facemmo la presentazione della squadra alla Tinaia, allora, cioè dove c'è la casa cantoniera ora, allora si chiama Tinaia. E ricordo perfettamente, io avevo un bambino piccolo, avevo 25 anni, era piccolo però allora, e si fece abbastanza tardi, insomma, per mangiare, c'era i buffet lì da una parte, e c'era il mio figliolo Corino che sbavava su questo buffet, e io gli facevo nini, vieni via, ta buono, ancora un'allora, ancora un'allora, e la mia moglie subito lì a pegliare. E mi ricordo Pasqua che lo prese per un braccio, lo portò là, si mise a mangiare lui e mio figlio, loro due soli, e mangiavano. E la mia moglie disse, no, ma guardi, lei disse, lei stia zitta, disse, perché i bambini e i vecchi hanno diritto di fare quello che vogliono. Quindi, per dirti la il personaggio, cioè, che poteva essere questo momento. Ma io tutti i dirigenti montevecchini li ricordo volentieri, da Parigi, da Sacchetti, anche l'anno della Serie D ricordo una bella dirigenza, anche perché con questa gente qui io non ero solito frequentare, l'ho sempre fatto per darmi una parvenza di professionalità mia, nel senso io non frequentavo le sedi o i giocatori, perché sei un uomo e come uomo prendi le simpatie, prendi, e quindi non frequentandole io vedevo la domenica e dicevo le cose. Però mi ricordo che a tavola tante volte con le dirigenze, io andavo a tavola con le dirigenze quando vai in trasferta e i giocatori mangiano per conto suo. Era una bella famiglia, un bel gruppo di persone, un bel gruppo di montevarchini. E da tifoso, un ricordo sempre legato a Vasco Farolfi, è stato, diciamo, un passaggio ponte a fine anni 80 dalla gestione Terzani a quella poi che fu di nuovo di Farolfi e Losi. Passaggio ponte perché? Perché il Montevarchi in quel momento stava rischiando di sparire dal calcio. Ci racconti quelle ore di attesa sotto al comune, se non ho capito male, dove erano radunati? Credo sia stata la sala consigliare attuale, dove il sindaco riunì, mi sembra sia stato Gregorini, i dirigenti del Montevarchi, tutti, compreso Terziani, perché avevamo una scadenza impellente che entro le 14 Montevarchi sarebbe stato cancellato, dalla C1 cancellato dal calcio. E ricordo benissimo tanti di questi dirigenti di cui io ho parlato, evidentemente le cose stavano economicamente talmente male che scendevano sconsolati, scuotevano la testa, dicevano ragazzi non ci si fa, ragazzi non ci si fa. Io rimasi lì, perché credo si fosse stato anche in ferie in quel periodo, e quindi rimasi lì fino all'ultimo insieme a un manipolo che salimmo su, e quando Vasco uscì da quella, abbracciando il sindaco, da quella stanza, dicendoci ragazzi, anche una parola un po' irripetibile, in tasca di ossa, si continua a fare calcio a Montevarchi e ho ripianto un'altra volta. Io sono di lacrima facile quando la gioia per il Montevarchi. Quando si parla di Montevarchi si scende la lacrimuccia. Sì, quello sì. Quello. Mentre invece, parlando di altri passaggi decisivi, di altri sliding doors, diciamo, come hai vissuto invece quello che è stato il passaggio dalla vecchia società di Montevarchi al nuovo Montevarchi Aquila 1902? Io questo non l'ho vissuto. Questo non l'ho vissuto perché, per i motivi di cui si diceva prima, siccome si vedeva chiaramente che le cose erano talmente sporche. Io ricordo l'ultimo anno che noi abbiamo fatto la C2, ci fu la presentazione del libro Il Tempio del Tifo, e io sono stato onorato di fare la presentazione di quel libro richiesto dagli ultra del Monte, e io davanti avevo tutta la dirigenza del Montevarchi, e io alla fine gli dissi, voi volete disperdere un patrimonio del genere, ragazzi, non facciamo scherzi. L'hanno disperso immediatamente, cioè penso gli anni dopo immediatamente, compromesse, discorsi, chiacchiere e compagnia. E io ricordo la mia ultima radiocronaca, è stato l'anno successivo, che io sono andato per Stefano Romei, che allora prese il mio posto, avevamo un inseritore telefonico già, le prime cose tecnologiche, e con tanto di cuffia, interruttori, e andai a insegnare a lui, feci la mia ultima radiocronaca per insegnare a usare a lui questo apparecchio tecnologico. Da lì in poi ho seguito solo mio figlio, che allora aveva 8 anni, 9 anni, fino a che è arrivato prima squadra lui a Terranuova, non qui. Ho seguito sempre il calcio giovanile, chiaramente interessandomi sempre di che faceva in Montevarchi, ma purtroppo sapevo che le cose erano quelle che erano. Ho vissuto benissimo il discorso poi successivo di questa dirigenza, perché 4 dei 12 dirigenti sono vecchi amici di vecchia data mia, quindi cioè sono anche di parte in quel senso, capito? Non è. Poi mi risulta che sono una buona squadra, una squadra insomma molto coesa, abbastanza. E poi ragazzi, fategli da bruciare. Non è infatti solo, cioè stanno tenendo il bilancio a posto e vincendo campionati. Più di questo non so cosa possano fare, cioè, obiettivamente. Il settore giovanile che è rinato. No, il settore giovanile che è esploso, perché il settore giovanile a Montepaschi si può dire quasi quasi non c'era manco. Cioè ragazzi, negli anni in cui abbiamo parlato di C1, il settore giovanile c'era poca roba a Montepaschi. Non è che, o poco... Addirittura. E io l'ho seguito il settore giovanile, ripeto, per quanto riguarda il Valdarno, per un certo periodo, seguendo mio figliolo in automatico, l'ho fatto anche dirigente e accompagnatore, addetto all'arbitro addirittura, figuriamoci, nelle regionali, quindi... E addirittura quella che noi abbiamo già definito qualche puntata fa, la fase di nani e ballerine alla guida, al timone della società, siamo ritornati alla guida da parte di Montevarchini, che però si sono ritrovati in dote delle strutture cadenti, e loro che hanno riportato in auge le sorti della prima squadra, ma non solo, come anche tu hai detto, del settore giovanile, adesso magari si trovano un po' in difficoltà, appunto perché le strutture che gli sono state lasciate in dotazione, in dote, non sono adeguate forse, o sono inferiori a quelle che servirebbero per portare avanti un discorso di settore giovanile in proprio di tutto punto. No, non solo mancano i campi, mancano queste strutture, ma anche lo stesso Brilliperi è carentissimo. Se te vai dietro alla Gradinata, dove io ero come postazione radio, la Gradinata sta cadendo a pezzi. Cioè, questo lo vede anche l'imbecille. Cioè, ragazzi, passatemi il termine, ma insomma si vede benissimo. Lì c'è stato lasciato anni di incuria in quello stadio, che è uno stadio anche glorioso, se vogliamo. Quindi, ragazzi, ve l'ho detto, io l'ho visto quasi nascere, perché a parte le tribune coperte, io ho visto visto cementificarlo tutto, costruirlo tutto, gratuitamente, era proprio fuori un bello stadio. Non ci scordiamo, lo dissero in un'altra trasmissione, e ne faccio tesoro io, lo disse una televisione di Chianciano, nemmeno di qui. Da Firenze a Arezzo, passando per Siena, nel mezzo a questo triangolo, l'impianto più importante e più capiente era il Brilliperi. Non a caso, già fino all'anno scorso, con le carenze che può avere, ci sono stati disputati 3 spareggi dentro questo stadio di categorie inferiori, va bene, però ci sono stati 3 spareggi. Quindi l'augurio, diciamo, è come è stato risollevato, ecco, le sorti io della squadra. Cosa possono i comuni di oggi spendere o non spendere o accantonare? Accessi a crediti sportivi, quello che possono fare lo facciano, perché ce n'è veramente bisogno. E che i Montevarchini, voglio dire, io purtroppo, per fortuna, perché abito in una collina che vedo tutto Montevarchi, lo vedo la mattina quando balza alle 5 e porto fuori il cane sempre. Io ho Montevarchi davanti, quindi io sto, però non voto Montevarchi perché il mio comune è Terranuova, di residenza. Però ripeto, cioè, io me ne ricorderei se fossi a votare a Montevarchi. Ritorniamo un attimino indietro ai tempi di Radio M. Quando Radio M si trasferì a Terranuova, e prima hai detto che la radio lasciò un po' il bacino essenzialmente montevarchino per allargarlo a quello valdarnese, e questo anche nel calcio, perché poi si trasmettevano da Radio M contemporaneamente circa 6-7 partite ogni domenica, e quindi ci fu anche bisogno di andare a cercare altri speaker, altri radiocronisti. Ci racconti quella storiella che un tifoso montevarchino, cioè tu, andasti a arruolare, si può dire arruolare, un tifoso sangiovannese per fare le radiocronache della sangiovannese. No, ti dico di più, ti dico che lo sport a Radio M, Radio M è nato, chiaramente l'idea principale, io ero un socio, ero il padrone, tutto quanto in quel momento, e mi garbava lo sport, ero legato allo sport, volevo fare lo sport, lo volevo fare in un certo modo, non più ovviamente chiamando Bressane e Polvere e basta, ma voglio dire coinvolgendo il più possibile Valdarno. E c'avevo un amico di Terranuova che io conoscevo, che allora gestiva il bar Martini, proprio a San Giovanni, e quindi gli dissi, io avrei bisogno di un sangiovannese che in gamba, che sappia parlare, che sappia, e lui mi portò Leonardo De Nicola, di cui mi pregio di essere amico, perché io sono stato un mese in ospedale in una clinica, è venuto a trovarmi, addirittura nel modenese, figuriamo, quindi mi pregio di essere amico suo, come sono amico anche di Forni, di Baciardi, io non ho difficoltà in questo, io sono una persona di sport. Io sono montevarchino al 2000%, non sono anti. Questo, ragazzi, per una natura mia, che mi è stata insegnata quando giocavo a basket, che mi dicevano quello davanti a te ha due gambe, due braccia, due cose, se hai due testicoli come sua, li batte, altrimenti non lo devi disprezzare. Ecco, come mi hanno insegnato a fare così. E notiamo bene, io avevo i Galli campione d'Italia, contro il 59 sono quelli che sono costruiti il palazzetto, figuriamoci, sicché mi facevano anche dei dischetti boccioli, quindi figurati. Ed è venuto per puro caso che questo mi ha portato Leonardo De Nicola, lui ex comando della San Giovannese, io ex ultra del Montevarchi, i vecchi ultra del Montevarchi che stavano sotto la cabina radio, dove poi sarei, ironia della sorte, ci avrei passato un sacco di domeniche, però con noi è iniziato lo sport a radio. E poi la cosa che mi fa piacere è che tantissimi di quelli che vedo ora nelle televisioni, nelle radio, sono passati da lì, servito da Palestra. Mi unisco al tuo piacere di avere amici a San Giovanni, ci mancherebbe altro. Io sono stato compagno di banco di Massimo Baciardi a scuola per 5 anni e abbiamo animato. Ha fatto una cosa sua, anche lui è pregevole, quindi umiliarla perché è azzurra, però se fosse rosso blu mi piacerebbe tanto. Sono d'accordo, io e lui abbiamo animato per 5 anni la classe dal punto di vista sportivo. Mi ricordo, facevamo la schedina della giornata del Montevarchi e della San Giovannese, quando il Montevarchi era in C1 e la San Giovannese all'epoca era in promozione. Sì, mi ricordo. E comunque, Marco, adesso ti voglio fare una domanda che è diventata un po' una domanda di rito, che sia parli con i tifosi o si parli con i giocatori. Te, prima di una radiocrona o magari di una radiocrona importante, avevi tipo dei riti, qualcosa di scaramantico per cui ti preparavi in un certo modo, oppure... No, l'unica cosa che avevo io era il mangiare, cioè io non ho mai mangiato tanto prima di una radiocronaca, perché altrimenti mi imballavo. Menù di tutte le domeniche, quando vanno a trasferta, antipasto e primo. Roba leggera, senza ingolfarsi, non bevo vino, ma questo l'ho sempre, per quanto riguarda tutte le partite, tutte in casa e fuori facevo sempre così. Ma non era un rito, era una cosa mia proprio... Una questione fisica, diciamo. No, proprio per evitare anche abbiocchi strani, che ne so, io non è che ti abbiocchi con un microfono davanti, però... Cioè io ho iniziato così e ho proseguito così perché mi sono trovato. Caffè quindi... da fuori in fondo per svegliarmi, perché a me caffè mi serve solo per svegliarmi, non lo bevo la sera se non dormo. Non sei un fautore della dieta, Marcello Romei, che è un collega, no, grappa pre-partita o durante? No, purtroppo per fortuna, l'unico difetto che non ho da un punto di vista di culinario, perché io mangio e come, è proprio i liquori, mi fermo al limoncello e all'amaro di camo, se non so se si può fare, qui mi fermo, io non bevo neanche birra, perché mi dicono quando ero bambino ne bevevo un casino, io non me lo ricordo neanche, a me la birra non mi piace. E quindi per Romei tu saresti il collega perfetto, tocca tutto a lui. No, ma infatti con Romei c'è un aneddoto, che tutte le domeniche lui viene a Brilli Peri, noi alle 2:30 siamo a prendere il caffè, certo, ci avrà anche lì, a prendere il caffè allo stadio, siamo lì, lui paga il caffè e si prende la grappa. È un rito che va avanti. Io prendo il caffè e lui la grappa, sì, regolare, tutte le domeniche, quando viene in casa, cioè domenica non c'era perché era a fare un'altra partita, ma se lui avesse seguito i Montevarchi alle 2:30, sì, la partita alle 3 o alle 2, se alle 2:30, quello è il rito. Mezz'ora attuale, prima. Attuale, sì. Sì, si discute di calcio, le solite cose. Una domanda che mi viene in mente, siccome molto poche persone nascono imparate, probabilmente tu non sei nato imparato nel fare le radiocronache, ma via via facendole con passione e dedizione poi hai acquisito probabilmente una certa confidenza che ti ha portato avanti nel tempo. Ti ricordi la tua primissima radiocronaca, le sensazioni, l'impaccio o qualcosa di particolare? Se ti devo dire la verità, no, non me la ricordo proprio, cioè proprio si perde talmente nel tempo, anche perché io non sono partito radiocronista, io sono partito conduttore studio a Terranova, non ero partito radiocronista. Radiocronista è stata una necessità successiva, perché ci sono state varie vicissitudini, qualcuno è passato alla televisione, qualcuno, capito? Poi quello non poteva, quella domenica non poteva, allora serviva uno che andasse a sostituirlo, allora vai te, capito? E queste cose qui, l'unica cosa che un po' che è salvato un po' in questo mi può aver agevolato è che io a matematica ero un ognucco a scuola, però italiano avevo 9 anche alle superiori, quindi probabilmente un po' mi ha salvato sta storia. perché per il resto, poi fra l'altro i primi anni di lavoro 80, 81, 82 ho fatto il rappresentante, quindi non è che ora faccio un lavoro e sto al pubblico, quindi bene o male sono abituato. Bene Marco, concludendo ti facciamo un'ultima domanda riguardo tipo i giocatori del Montevarchi. Qual è, negli anni in cui ti hai seguito il Montevarchi sia come radiocronista che come tifoso, il giocatore più indimenticabile secondo te? E io ti dico un nome che, vabbè, è difficile spulciare un nome, però quello che nel momento in quel campionato mi piaceva giocare veramente era Cimarelli. Ero convinto che avrebbe fatto, ecco, è uno di quelle sopie che posso aver preso io, nel senso che dici questo giocatore fa carriera, posso aver indovinato su Calori, su Corradi, su tanti altri. Su lui sì, vabbè, è arrivato in Serie B, ma insomma poteva fare di più, poteva fare con i mezzi tecnici che aveva. Viceversa, anzi, pur vedendo che erano giocatori parecchio bravi, magari non sono stati fenomeni, ecco, Corradi era un fenomeno a livello di testa, cioè io ricordo ancora che se volava una palla vacante in aria la toccava lui, poi magari faceva pochi gol perché Montevarchi non ha fatto caserve di gol, così come non l'ha fatto i Comandini, cioè, sono passati dei bei giocatori a Montevarchi, però ricordo uno scontro epico in un Reggiano Montevarchi 0-0 tra Calori e Silenzi, se le dettero di santa ragione, 0-0, però insomma ecco, ricordo alcune fiammate di questo genere, o l'Aglietti di Gubbio che ci salvò quella partita, poi non mi ricordo se quell'anno gli si retrocesse o meno, che si concordava con il collega di Gubbio che quello avrebbe fatto carriera, ci si stava dicendo questo e lui, mi ricordo, era tornato alla Rondinella, poi era tornato a Montevarchi, insomma non è che in quel momento stesse facendo grande carriera, però era giovane e poi arrivò fino alla Serie A, questo sì, di giocatori non ne ricordo tanti, Berlini stesso, insomma ce ne stati diversi, anche diversi portieri, poi magari non hanno fatto, a parte Negrisolo, che io mi ricorderò piccolissimo, ma quella partita ce la vinse da sé, non tanto Scarpa dallo spareggio quanto Negrisolo, perché addirittura dopo il gol che noi si fece ci furono tre azioni consecutive per la Pistoiese a tamburo battente, lui salvò tutte e tre, insomma, anche dopo, non solo l'89 minuti prima, ma anche quelli dopo, sicché. Ebbene, grazie Marco per aver snocciolato. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi perché vi ho fatto un bel lavorino. Mi piace l'idea di questa Montevarchinità perché qualcuno la doveva tirare fuori. Julian, vedo che non c'è più, lui segue anche i suoi iscritti, per cui non io ci razzolo in mezzo a stavolta. Te ci sguazzi nella Montevarchinità, per cui mi piace tanto. E grazie allora di nuovo per aver snocciolato i tuoi ricordi, le tue passioni e quello che ha rappresentato per te il Montevarchi alla ricerca appunto della Montevarchinità. Ringraziamo il nostro regista di stasera, Francis Ford Coppola, ringraziamo anche Julian. Grazie a voi ascoltatori, grazie a Marco, buonasera. E buonasera, arrivederci. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila trasmettendo dalla galleria San Lorenzo in pieno centro di Montevarchi. Il regista. Si è detto il regista. Marco, dici un nome di un regista. Se riparte. Dici un nome di un regista di garba. No, per sì, ok. Ma io è di mestiere. Scusa. Ci legge le domande prima che si finisce. Colleghi, però io sono buono. Noi siamo improvvisati. Guardate mio papà. Mi fece piangere un po', io volevo chiedere, però non scherzare, questo di Prato. Ci siamo ancora in contatto perché si è rifatto una scena con uno di Prato, uno di Firenze, perché si era fatto invitare insieme, questo ancora. E poi fra l'altro si era fatto Salerno, Napoli e Milano, tutte e tre insieme. Questo, ma che se passo in via, io voglio, poi c'è il treno, via, terra. Ero di fuori veramente con una tegola. Io mi feci tutto un film, io l'ho queste cose, sono i film essere pessimista per natura, perché poco di più. Io ero un 1,86 m per la pallacanestro del servizio.